anziani hanno abbastanza cura dell'udito, ma dobbiamo stimolarli su questo argomento, nel senso che le perdite di udito sono ancora una problematica un po' sottovalutata, sottostimata, questo sia dagli italiani sia un po' dalle istituzioni. Quindi bisogna stimolarli. Le nostre campagne che facciamo ormai da parecchi anni servono proprio a stimolare la loro curiosità, tant'è vero che il 40-50% delle persone che affluiscono durante questi eventi nazionali promossi dall'AIRS è la prima volta che si sottopongono a un esame e molti di loro non hanno neanche il minimo sospetto di avere una perdita di udito, che poi magari si rivela facendo un semplice test audiometrico. Quindi è estremamente importante la cura del proprio corpo, significa anche cura dell'apparato sensoriale, e tra gli apparati sensoriali sicuramente quello uditivo è uno dei più importanti. Professor Cianfrone, quali novità dalla ricerca? Quando saranno a disposizione queste nanotecnologie che sembra destinate a cambiare, a rivoluzionare l'approccio ai problemi uditivi? Esattamente, guardi, la terapia della sordità, ancora oggi parliamo di sordità neurosensoriali, che sono la maggior parte delle sordità, quindi quelle che colpiscono l'orecchio interno, il nervo acustico. L'approccio farmacologico è molto difficoltoso ancora oggi, perché l'orecchio interno è molto protetto, sì, e quindi ha una serie di barriere che non permettono ai farmaci di penetrare in questa zona così delicata e così importante. Quindi un filone estremamente promettente è quello, come ha detto lei, delle nanotecnologie, quindi della nanoterapia, sfruttando delle particelle piccolissime. Pensi che sono varie decine di migliaia di volte più piccole di un capello queste particelle, e che fungono da trasportatori di farmaci. Possiamo utilizzare la nuova farmacologia di farmaci protettivi, rigenerativi sulle cellule, e far arrivare questi farmaci esattamente sull'organo su cui c'è bisogno di agire, quindi l'orecchio interno, la chiocciola Certo, questo sia specifico. Per problemi uditivi lievi, sì, che più severi, che per... Certo, e la gamma sarebbe estremamente larga di situazioni in cui questo tipo di approccio farmacologico finalmente potrebbe avere successo. Parliamo ovviamente del futuro, ma non tanto prossimo. Lontano, speriamo non prossimo. Tanto lontano, perché ci sono gruppi internazionali che su questo campo specifico, laboratori molto molto attrezzati, che stanno lavorando, e queste ricerche si affiancano a quelle già iniziate da tempo sulle cellule staminali. Come lei sa, anche quello è un veicolo promettente, ma forse queste nanotecnologie riusciranno a battere nei tempi le ricerche già iniziate. Professore, questa è musica per le nostre orecchie. Grazie per queste buone notizie. Buona giornata, professore. Grazie.